Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ringrazio Hamon e Fillon per aver chiesto di votare in mio favore al secondo turno. Fin da stasera voglio andare oltre, voglio unire tutti i francesi. Non starò mai lontano da voi. Avrò sempre bisogno di voi. A nome vostro continuerò fino al secondo turno e porterò avanti l'esigenza di ottimismo, la speranza che noi vogliamo per il nostro paese e per l'Europa. Oramai è tempo di liberare il popolo francese, tutto il popolo, senza dimenticare i nostri compatrioti d'oltremare che mi hanno espresso una fiducia enorme. È venuto il momento di liberare il popolo francese dalle élite arroganti che vogliono dettar legge. Io sono la candidata del popolo. Lancio un appello a tutti i patrioti onesti e sinceri, indipendentemente dalle loro origini, indipendentemente dal loro percorso e dal loro voto al primo turno. Votatemi. Cercate di... Ve la faccio molto semplice, radicalizzandola, come sempre, in maniera cosciente e del tutto lucida, facendo di me l'uomo del bar. Voi questa mattina, se poteste decidere, chi scegliereste, Emmanuel Macron o Marine Le Pen? Perché ve lo dico? Ve lo dico perché vi ho chiamato a fare una domanda apparentemente altrettanto banale, altrettanto qualunquista, ma secondo voi l'uomo forte è Trump o Putin? In un momento in cui sembrava che si mettesse in crisi questa sorta di binomio, la dia dei grandi uomini forti, Trump spara un missile contro l'Afghanistan dove stavano anche i russi e improvvisamente gli italiani devono scegliere. Stiamo con Trump o stiamo con Putin? Qual è quello che ha le palle più d'acciaio, che ci piace di più, visto che tutti avere un uomo forte, qualcuno che abbia personalità, qualcuno finalmente gliela faccia vedere a quelli che assalgono la nostra compattezza, il nostro spirito nazionale, il nostro essere italiani, il difenderci dagli stranieri, via dicendo. Beh, adesso vi pongo la stessa domanda. Macron o Le Pen? Chi è l'uomo forte dei due? Sì, perché tutti gli uomo fortisti questa mattina avranno delle crisi di coscienza terribili. Gli uomo fortisti in linea di massima dovrebbero star con la Le Pen, perché è chiaro, è la donna uomo forte, quella che batte il pugno di ferro, caccerà tutti gli stranieri, rintrodurrà probabilmente anche la pena di morte, manda quel paese l'Europa, la Francia si chiude, tutto quello che tutti vogliono. Infatti stamattina già i nostri politici, che chiaramente senza assolutamente nessuna remora si rifanno a Marine Le Pen, dicono: che bello, dai, ce la facciamo, forza, finalmente, sì, calma, ma è una donna. È una donna che probabilmente tutta la vita ha dovuto fare l'uomo forte, perché aveva un padre piuttosto ingombrante, piuttosto imbarazzante. Anche lei difende Dio, padre e famiglia fino a un certo punto, bidivorziata, con una situazione familiare anche lì abbastanza difficile. Ve la ricordate? Ve lo ricordo io, se non ve la ricordate. La madre di Marine Le Pen, Pierrette, a un certo punto la fa dispetto al padre Jean-Marie Le Pen, il grande rappresentante dell'ultradestra francese. Cosa fece? Fece delle foto su Playboy in cui lei stava appecorinata, che dava lo straccio per terra, appecorinata sul divano con il bidone aspiratutto, per fare dispetto al grande Le Pen. Fece vedere lei a 52 anni nuda su Playboy, una cosa difficile da lavare per tutti i compattisti familiari. D'altra parte abbiamo quello Emmanuel Macron, che già sento dal palpitare orgasmatico delle mie amiche, sarà il nuovo idolo di tutte le signore e signorine italiane. Perché? Perché è un bel ragazzino, bravo, con una storia d'amore assolutamente fuori da ogni norma. A 15 anni si innamora della sua insegnante di francese, che però ha 24 anni più di lui. Questo amore dura fino ad oggi. Lei ha 64 anni, lui ne ha 39. Vivono tutta una bella famiglia allargata. Lui vive con i suoi figliastri, che in realtà sono i fratellastri, perché sono i tre figli della signora, appunto, con cui si è sposato, e che gli fanno anche la campagna elettorale. Uno fa l'ingegnere, gli cura i social social network, un altro fa l'avvocato, gli cura un po' i rapporti con la stampa, un altro il medico cura la sua salute, quindi è una bellissima cosa. Ma chi è questo qua? Ha la fisionomia dell'uomo forte, ma tutt'altro, figuriamoci che deve pubblicamente smentire le dicerie che lo danno per omosessuale, totalmente asessuato, lui non sembra che gli interessi comunque rappresentare uno stereotipo di genere che ha sempre contraddistinto tutti i presidenti francesi, una lunga serie, anche più integerrimi, anche più i più amati, comunque hanno doppie, terze vite, doppie famiglie, amanti, incroci vari, bizzarri, insomma, c'era sempre il dover tenere alto una sorta di vessillo della virilità legata all'uomo che sta al comando. Beh, oggi voi italiani invece come ve la mettete? Con chi state? Con Marine Le Pen o con Emmanuel Macron? Che è quello che vi piace di più? Ma però rendetevi conto che il concetto di uomo forte è ormai, almeno sul fronte francese, totalmente scomparso e del tutto tramontato. 800 24 0024, a tra poco. Melog, cronache meridiane. La moglie di Macron, Brigitte, di 24 anni, più grande, sua ex prof. Sono innamorati quando lui aveva 16 anni, quindi quando era ancora nei banchi di scuola. Lui appunto aveva 16 anni, lei che cosa ha fatto per lui? Ha mollato marito e tre figli per poi ricongiungersi dopo. Si sono talmente ricongiunti insieme ai tre figli e Macron che adesso i figli di lei lo sostengono in vari modi. Allora, eccoli qua, Sébastien, ingegnere, segue i social di Macron, poi Laurence, cardiologo, lo segue per tenerlo in forma, e poi Tiffen, che è lei, avvocato, è impegnata al comitato di En Marche a Pas-de-Calais. Questa è la scheda che ieri ha fatto Stefania Pinna su Sky TG24, proprio per raccontare quali sono i punti salienti, quello che oggi sarà sulla bocca di tutti, di questo enfant prodige, bravissimo, sempre primo a scuola, sempre i migliori voti, entra a lavorare con i Rothschild, fa una grande transazione, diventa milionario, quindi è ricchissimo, però allo stesso tempo è marito, sposo e nonno. Nonno dei nipotini dei suoi fratellastri figliastri, una cosa fantastica, mai accaduto prima, non solo nella storia della Francia, ma nella storia generale, che ha un uomo politico in procinto, perlomeno con buone probabilità di conquistare la presidenza francese, ci sia stata una così frastagliata, eterogenea e divertente storia familiare. Enrico da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma intanto io penso che non è l'assioma uomo forte che arringa le folle, uomo debole che invece ha più l'atteggiamento da ragioniere, secondo me non funziona più. Beh, tutt'altro che un ragioniere, qua Macron non è un ragioniere. No, era una battuta. Cioè, il fatto che la Le Pen richiami sempre le folle, faccia sempre questa chiamata alle armi di tutti, non vuole dire per forza di cose di essere un candidato forte, secondo me. Io ho visto, questa è la mia impressione, che Macron comunque è un personaggio determinato e anche stabile, cioè sa quello che vuole. Io, obiettivamente, al di là degli slogan della Le Pen, non capiamo dove andrà la Francia con la Le Pen. Però con mi scusi, Macron non capiamo. Sì, sì, lei fa una lettura di tipo politico corretta, senz'altro, però vorrei portarla a sforzarsi ancora nella direzione che la portavo io, che è una direzione provocatoria, è chiaro. Noi siamo abituati a definire l'uomo forte secondo alcuni stereotipi di genere. L'uomo forte è quello lì, nella nostra idea, che ha il volto volitivo, che arringa le folle, che si fa condottiero, portatore, che batte il pugno sul tavolo e prende la spada in mano. In questo caso però chi ha questo atteggiamento è una donna, Marine Le Pen, che a tutti gli effetti è un uomo forte, perché se si chiamasse Marino invece che Marina sarebbe un uomo forte, sarebbe quello che tutti direbbero, ah, finalmente arriva l'uomo forte. Macron, che sta rischiando di prendersi lui, diciamo, la presidenza della Francia, le si oppone con valori di genere uomo fortista totalmente, totalmente opposti. Uno che deve dire pubblicamente: no, guardate, non sono l'amante del direttore della radio nazionale, perché che Assange dice che ci sono delle carte segrete che partono da Hillary Clinton, che trattano di lui, ma sappiamo, si intuisce cosa sia, che viene accusato di far parte parte di una fortissima lobby gay, banchieri, americani, tutto insieme, capito? D'adito ai più foschi e anche più arzigogolati complottismi. Però non è quello che nella mente avevamo come uomo forte. Però l'uomo forte, come ha detto giustamente lei, rischia di essere lui. Certo, perché secondo me, a parte il fatto che lei sa meglio di me che la società comunque è cambiata, no? Sotto certi aspetti, cioè l'uomo forte per eccellenza, per dirle, Trump, rischia di essere anche un po' ridicolo con certe sue manifestazioni, cioè è finito lo stereotipo di una volta, ecco, adesso l'uomo forte come può essere un Macron lo dimostrerà più probabilmente con l'intelligenza, questa è la mia impressione. La ringrazio Rico, sentiamo Antonio, velocemente, Antonio. Pronto? Antonio. Pronto? Sì, c'è un po' di rumore di fondo, non so che sta succedendo. Mi esco un attimino che sto in supermercato, ecco, adesso mi metto in parcheggio. Però premio la sua caparbietà nel voler dare un contributo alla trasmissione, quindi sì. L'attendo volentieri. Avanti, Antonio. Ecco, chi è l'uomo forte? Marine Le Pen o Macron, Emmanuel Macron? Secondo me non rappresentano fisicamente quell'immagine dell'uomo forte, perché una Le Pen ha i contenuti, ma nei fatti, diciamo, sì, non lo dimostra, cioè prendiamo un uomo forte a caso e si faceva vedere che spostava le balle di fieno e agiva. Ah, ecco, gli manca la prestanza del duce a Marine Le Pen, cioè non ha fatto il giro del mondo con la barca da sola, e cioè non c'ha di queste cose che da poter colpire. Cioè l'uomo forte deve ancora dimostrare le sue qualità virili anche praticamente, non basta prendere le idee del padre, ridargli una ripulitina e dire certo. deve trasmettere gioia, azione, giovinezza. Sì, però il giovane è Macron a tutti gli effetti, 39 anni, non si è mai visto. Certo, però è un signorino, un damerino, cioè dove lo mettiamo? Certo, in camera da pranzo o a lavorare in cucina? Qualcuno dice crudamente è il trionfo del toy boy, il toy boy è il giovane compagno di una donna molto più grande, che è il totale affronto di ogni idea macista che possa esistere. Sentiamo però un parere illuminato. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, past president della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, molto appassionato e conoscitore delle vicende francesi, ma c'è un motivo in più perché lui sta oggi al nostro microfono. Vediamo se tu lo riveli ai nostri ascoltatori. Beh, perché Emmanuel Macron è figlio di due medici, di cui il padre, Jean-Louis Macron, è neurologo all'ospedale di Amiens. Quindi il figlio di un neurologo di una città di 130.000 abitanti nel nord della Francia ha elevate possibilità di diventare presidente della Repubblica Francese. E allora vuol dire questo che ti rende fiero. Una maledizione avere un padre neurologo. Ecco, a parte questa verosimigliante coincidenza che abbiamo toccato adesso, vediamo un po' di capire. Sei d'accordo, Giuseppe, che l'idea stereotipata di uomo forte in questa mattina travagliata, perlomeno tra gli italiani, merita qualche ripensamento? Ma non confonderei l'idea dell'uomo forte che abbiamo noi con cosa hanno scelto i cittadini francesi ieri andando alle urne. Cioè, tu col tuo mestiere di provocatore professionista e di elevato livello è giusto che faccia questa provocazione, ma il concetto è un altro. Questi avevamo da scegliere fra due modelli che hanno durato 40 anni nella Quinta Repubblica, e come se noi dovessimo ancora scegliere fra il vecchio PC e la Democrazia Cristiana, e hanno mandato tutti e due a casa. Da una parte Fillon e dall'altra Benoît Hamon del Partito Socialista. E invece hanno mandato avanti un tizio di 39 anni, che però non è un damerino, è uno che ha fatto la maturità a 16 anni, è uno che ha studiato filosofia, ha fatto 10 anni di conservatorio con il premio per... È un pianista molto, molto, esatto, bravo, sì. Ed è uno che, dopo essersi laureato, dopo essere andato alla famosa scuola nazionale, l'École nazionale d'administration, contrariamente a tanti nostri politici che non hanno né arte né parte, non ha solo la sua laurea in scienze politiche, non solo ha un dottorato in filosofia con una tesi su Hegel, ma è uno che è diventato ispettore superiore di quella che noi chiamiamo l'Agenzia delle Entrate all'età di 31 anni e che prima di entrare nel governo era l'assistente diretto del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate francese, quindi un professionista delle finanze dal punto di vista dello Stato, quindi delle entrate, non delle banche, questo viene dopo, che era diventato all'età di 33 anni un alto funzionario a top dei livelli. Questo in un paese meritocratico è difficile che avvenga perché tu sei l'amichetto di qualcuno. Poi consideriamo anche i soldi, l'ha fatti non attraverso oscuri maneggi, ma l'ha fatti con il suo lavoro, ha fatto una importante transazione e ha preso giustamente la sua parte. Dopo essere diventato vice, quasi vice capo dell'agenzia delle entrate francesi, l'ha chiamato la banca Rothschild, l'ha fatto diventare socio, un 32enne, e nell'arco di pochi anni è arrivato ai vertici di questa banca d'affari, facendo evidentemente affari, ma è uno che la sua tesi di specializzazione l'aveva fatta su Machiavelli, non l'aveva fatta sui tassi di sconto o sui crediti. Il nostro problema, Beppe, è che in Italia non abbiamo dei punti di riferimento così inattaccabili da come proporre. Come diceva l'ambasciatore francese negli anni Ottanta a Palazzo Farnese, non siamo un paese povero, siamo un povero paese sotto questo aspetto. Basta pensare agli accidentali possessori di lauree non comprati in Albania che stanno al governo, a quelli che proprio la laurea non l'hanno mai avuto e contrabbandano dei diplomi di magistrali o cose varie per titoli di laurea. Questo è il baratro, capito? Ma al di là di questo, questi hanno avuto il coraggio di dare fiducia a un 39enne che non aveva dietro i partiti tradizionali e che ha detto ieri, ringraziando e chiedendo ai suoi di ringraziare per la partecipazione tutti gli altri candidati, dai trotskisti 0,5% fino a Fillon, escludendo la destra estrema di Marine Le Pen, e che poi ha detto: io domani non vi chiederò da che parte venite, che storia avete, se avevate una destra di partito prima per includervi nel vostro progetto e per diventare casomai membro del mio governo, vi chiederò se nel nostro cammino, perché en marche vuol dire in cammino, avete voglia di contribuire a fare lo stesso percorso, perché ne condividete gli obiettivi. Sentiamo un attimo Francesca da Firenze. Francesca. Sì, salve. Io sono Francesca e in quanto donna di età di Brigitte direi che l'idea dell'uomo forte per me è Macron, perché ha il coraggio di andare contro le convenzioni sociali, ha il coraggio di avere uno sguardo fiero quando parla e dà questa certezza di sicurezza morale, perché Francesca, lei è la prima donna che oggi interviene e parla di Macron e mi fa piacere. Lei ha detto subito la stessa età di Brigitte. Ecco, secondo lei la gestione di una donna tanto più grande è una gestione che richiede comunque una forte carica di responsabilità, perché è facile vederla dal punto di vista del ragazzino che sta all'ombra della donna più grande, ma una donna così grande con dei figli, con una famiglia, tu è nonna, diventare nonno a 39 anni richiede un impegno, richiede delle qualità. Sì, l'intelligenza emotiva intanto è una pulizia morale, che è quella di sapere che cosa si vuole. Non credo che stiano insieme da poco, pare che siano un'ora, non ricordo da quanto lui, tempo. Lui si è innamorato a 15 anni, da 39, quindi idealmente questa è la Io, sua donna da sempre. Io da 60enne che non amo i ragazzini, le direi che un uomo così lo prenderei immediatamente. Se lo prenderebbe al volo, figuriamoci. Ma certo che sì, ma l'uomo forte quale? L'uomo forte qual è? Quello che poi picchia e uccide, o è quello che fa sembrare di avere, scusi il termine, le palle, ma poi bisogna occuparsi di lui in tutto e per tutto? Oppure è la donna come Le Pen che fa finta e poi è divorziata? Ma questo è ipocrisia morale. Quindi per me la forza sta nel dimostrare chi si è, come si è, con lo sguardo fiero e pulito che aveva lui ieri sera mentre parlava. E guardi caso, guardi caso, però il mondo degli uomini, la prima accusa che gli fa è come i bulletti a scuola, sei omosessuale. Ma è certo, perché il concetto è sempre quello, come dice la Littizzetto, bisogna misurarselo. Cioè, e basta con queste storie, ci vuole anche un'intelligenza emozionale, emotiva e capace di mostrare anche questo aspetto. Per me è questa forza. La ringrazio Francesca, ci fermiamo un istante. 800 24 00 24, avete capito già dall'inizio di questa trasmissione il tema è proprio questo. Noi italiani guardiamoci un attimo a casa nostra, nella nostra coscienza. Questo è un esempio che probabilmente di cui dovremmo tenere conto, dovremmo rivedere i nostri parametri comunque di condottiero, di premier, di persona che deve prendersi delle responsabilità. Fermiamoci un istante e fra un minuto riprendiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, Cronache meridiane. Marine Le Pen, che è indagata per abuso d'ufficio, truffa, falso e lavoro nero. Strasburgo le ha chiesto il rimborso di 339.946 euro per gli stipendi versati a chi? Versati a una sua guardia del corpo, presumibilmente questo è quello che si crede, che in realtà era, aveva uno stipendio da assistente parlamentare. Questo può essere inteso come senso della famiglia, aiutare i familiari, ma non è soltanto la Le Pen che aveva questo difetto, anche Fillon aveva avuto una sua idea, il candidato Fillon, di leader repubblicano, di aiutare la famiglia dando stipendi a familiari come fossero collaboratori. Ma d'altra parte chi mi sta in questo momento portando Macron come esempio di concetto inattaccabile di famiglia, ricordate che uno dei supporter più potenti di Macron è proprio Jacques Attali, l'economista che parlava di amore collaborativo, di dissoluzione del modello familiare perché non più funzionale all'economia. La famiglia è qualcosa di fluido, ci si assembla a seconda di esigenze particolari, di servizi che si può svolgere l'uno per l'altro. Quindi guardate che i concetti tradizionali sono tutti messi in discussione, vuoi se dissimulati con ipocrisia, vuoi se rimessi in discussione con la proposizione di modelli nuovi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Beh, l'uomo forte è una persona tenerissima, mi dice mio cugino che abita a Montbéliard-sur-Saulce, dove è nata la Peugeot. Ed è dall'età di mio figlio, quindi cosa voglio dire? Puntiamo su questa gente qui. Se io abitassi come mio cugino in Francia, punterei su di lui. Per di più, ha una moglie che potrebbe avere l'età di mia moglie. Quindi che cosa vogliamo di più? Quindi dovrebbe che stare cosa attento. Vogliono di più i francesi? Dovrebbe stare attento a sua moglie da questo punto di vista. Beh, questo è un altro discorso. Però è così. Sì, lei pensi oggi se tutte le sessantenni italiane sentissero Brigitte, si risvegliassero e dicessero ma basta con questi mariti coetanei o semicoetanei, vogliamo anche noi il nostro Macron? No, ma non giochiamo sulle cose. È una domanda. Va bene a mettere in ironia anche queste cose, però... Vabbè, mica stiamo parlando di cose, si sta scherzando. È un dato di fatto. Ha scombussolato un antico tabù, nessuno si è mai scandalizzato se uomo di una certa età avesse una compagna più giovane, ma è raro di avere uomini così giovani con compagne così avanti negli anni rispetto a loro, e sono delle coppie felici. Certo, però io volevo sottolineare il fatto che una coppia di questo tipo che si propone ad una nazione come che ha le tradizioni più radicate è una bellissima novità, e lui per me è un campione di uomo forte anche nella sua tenerezza. Stiamo mettendo a punto un concetto nuovo, però questo è interessante. L'uomo forte che fa della sua forza la sua tenerezza. Sophie da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono una francese che vive in Italia da 28 anni. Ieri ho votato al consolato. Per chi ha votato, si può sapere? Ci tenevo moltissimo. No, le ho domandato, Sophie, si può sapere per chi ha votato o lo vuole tenere segreto? Io ho votato per quello che più di tutto, secondo me, poteva fermare l'avanzata di Le Pen. Chi era? Era Macron. Ah, Macron, ha votato per Macron. Era l'unico che poteva eventualmente fermarla. Ma per questo l'ha votato? Non era convinta in pieno della sua scelta? Non al 100%, però io la mia paura più grande è l'avanzata del Front National, quindi questo era l'intento primario. Poi si parla di un uomo di una formazione eccelsa, superlativa proprio, e io sento stamattina tutti questi discorsi su è molto più giovane della moglie, è forse, non si sa, omosessuale. Ma guardi, ai francesi queste cose qua non gli interessa proprio assolutamente. Sono provincialismi tipici, ma è una cosa degli invidiosi, diciamo così. È una cosa, guardi, incredibile. Ai francesi non interessa, abbiamo avuto un presidente Hollande senza moglie, quindi senza first lady. Non se n'è mai parlato, non ne parlano due minuti e poi finisce lì. È proprio focalizzarsi su questa cosa mi sembra ridicolo, ecco. Quando si sa, come ha detto prima il medico, il neurologo, la formazione e il percorso di quest'uomo. Beh, diciamo che è un avversario. Sì, però a mettere in giro la voce è proprio un avversario francese di Macron, un repubblicano. Ma sì, perché la guerriglia all'inizio c'è sempre e ci provano in tutti i modi. Ma il francese, le assicuro, non si sofferma su questa cosa. Non è importante per un francese. Ma assolutamente. L'auditore prima ha detto che in Francia la famiglia è molto radicata. È vero, ma è anche molto molto aperta di mente. È molto elastico il concetto, diciamo. È molto elastico il concetto, ma più di qualsiasi altro, molto più dell'Italia, ecco, io che conosco bene entrambe le realtà, molto più dell'Italia. Sentiamo Daniela, un'altra donna, questa volta romana. Daniela, buongiorno. Buongiorno. È d'accordo con la sua collega francese? Sì, assolutamente. Anch'io penso che sia strano che ci sia un po', al di là del discorso politico, perché noi siamo italiani, no? Quindi possiamo anche avere un pensiero, però si è molto scagliato sia sulla cosa, è certo che è un po' strano, no? Ma non è un toy boy, perché il toy boy è di genere, no? Il ragazzetto ventenne, questo ha avuto una storia, evidentemente era un ragazzino molto intelligente, dato poi il curriculum che ha avuto, che non sarà stato tutto merito di questa signora. Ma non è certo un tronista, questo è poco ma sicuro, certo. Appunto, e poi voglio dire, a parte che oggi le donne anche a 60 anni possono essere bellissime donne intelligenti, poi non si è mai criticato l'uomo importante che abbia fatto visibile una donna giovane, visibile o non visibile, molto giovane. In questo caso è un caso certamente a sé, ma bisogna vedere quello che questa persona ha fatto. E poi oltretutto doveva essere davvero un ragazzo maturo all'epoca, no? Visto che si è diplomato così presto. Io ricordo il fatto, ricordo anche alla stessa epoca c'era un'amica di mia mamma che si diminuiva, aveva 10 anni meno del marito ed era una tragedia, addirittura diminuiva l'età del figlio che aveva avuto da vabbè, questo è un nostro problema molto nazionale, cioè, capito? Quindi trovo che sia proprio un problema, guardiamo la persona che è, quello che può interessare nell'ambito dell'Europa. Io sono una che si occupa di economia anche, quindi voglio dire, davvero il curriculum che ha fatto e l'avrà fatto da solo, no? Ma su questo e non quindi ci piove, che lui sia il primo della classe, non ci piove, su tutti i campi. Noi italiani, poi perché dobbiamo valutare il mondo secondo la nostra equazione esistenziale, e non li fa finta di essere diversi da quello che sono. Ci poniamo questa domanda: come mai l'uomo forte è così diverso da tutti quelli che noi pensiamo gli uomini forti? Noi abbiamo avuto uomini forti, figuriamoci, per tutte le salse e per tutti i palati. Questo è totalmente diverso da tutti quelli che abbiamo conosciuto noi. Posso dire una cosa? Sì, certo. Ieri sera una trasmissione televisiva, tutti i giornalisti erano contro, sembrava un po' che fossero invidiosi, no? Erano tutti, non c'era una persona, no, una trasmissione seria che io guardo, e tutti erano contrari, non c'era uno che dava un giudizio positivo. Contrari, no? Su chi? Contrari a chi? A questo, a Macron. Ma mi sembra strano, guardi, io ho visto sinceramente trasmissioni di tutt'altro tipo. No. Tanta era la paura della Le Pen che erano tutti, lo vedevano come una sorta di benedizione veniva dal cielo. Io lo vedo così. No, posso dire era sulla 7. Sulla 7. Sì, sulla 7 la trasmissione, erano tutti, anche lo stesso direttore che io stimo, Mentana era contro Macron. Aveva dei dubbi. Come sarà, e poi è giovane, sì, ma in fondo c'ha 40 anni, e poi ci sono anche 39. Anche sul fatto del nonno, 30, vabbè, anche sul fatto che no, a parte che non è fratellastro, sarà, non so come si dice, ma anche il fatto, ci sono tante donne che sono nonne a 40 anni, nonne vere, e lui sarà stato nonno acquisito, e essere nonni è una cosa meravigliosa, non so se lei sì. Lo è, ma è una cosa no. Stupenda, io vedo i nonni intorno sono. Va bene, ma Daniela, non fermiamoci adesso su questo, è stato chiaro il suo concetto. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Giornalista del settimanale Oggi. Marianna Aprile si è occupata nella sua lunga e perigliosa carriera di tutte le possibili trasgressioni di uomini politici, di tutti i tipi, dai trans alle lolite e via dicendo. Dammi intanto il tuo giudizio su come reagiranno le italiane e gli italiani alla notizia Macron. Beh, come al solito, con l'invidia. Molti l'hanno scoperto oggi, perché fino a ieri non sapevano di chi fosse. Reagiremo da esterofili quali siamo normalmente in queste occasioni con una sana invidia, nel senso che è l'ennesimo modello nuovo e a cui noi insomma non arriveremo ad ambire anche solo col pensiero che ci viene proposto all'estero. Abbiamo avuto Obama, abbiamo tuttora Trudeau, Justin Trudeau, che comunque ha un anche lui delle caratteristiche molto simili a Macron, ma Macron è quasi una versione del videogioco del quadro successivo, no? Non solo è post-ideologico, non demagogico, europeista in questo momento, europeista, molto che la cosa più figa è dire abbasso l'Europa. Civili. Cosa? No, europeista in un momento che sembra che la politica, almeno le politiche di vari stati europei, dando contro all'Europa si conquistino quanto mai proseliti. La cosa più demagogica è dire abbasso l'Europa, ci ha affamato, no, torniamo certo, alla sovranità. Dal punto di vista diciamo della narrazione, come piace a molti chiamarla, aggiunge un tassello fondamentale rispetto anche a Obama e a Trudeau, cioè è tutto quello che sono stati loro in salsa europea, ma ci aggiunge anche il fatto di potersi concedere il lusso di mostrarsi. Allora fermati un attimo, Anna. Tu hai detto la narrazione, quindi preparati. Adesso domandare il traffico, la domanda prossima. Siamo già pronti alla macronizzazione di Renzi? Ferma un attimo, sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, Macron Le Pen, dov'è l'uomo forte? Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno Gianluca, io avevo 28 anni e conobbi una donna di 42, abbiamo fatto un po' di strada assieme, non una cosa incredibile, ma a Milano, Milano, provincia di Milano, e quindi non mi è sembrata una cosa, forse non sarà molto comune in Italia, però io l'ho vissuta tranquillamente. Beh, lei ha avuto una storia d'amore con una donna più grande. I 14 anni di differenza, qualche battutina sì, ci poteva stare, gli amici, però onestamente adesso Macron credo che ne abbia molti, forse 24 di differenza, quindi ne aveva, insomma, io solo 14, però insomma in Italia è possibile. 10 anni non sono poco, 14 anni, sì, 14, sì, sì, ma 10 anni di differenza fra la sua esperienza e la di Macron, sì, non so, sì, sì, sì, sì, sì. Poi no. Scusi, Macron l'ha amata da quando aveva 15 anni, l'ha sposata, è entrato in famiglia e si presenta al ballottaggio per dare presidente dei francesi portando lei sul palco, questa è mia moglie senza nessun problema, ma giustamente così è, mi meraviglio che ne parliamo, ma ne parliamo proprio perché non ci debbano essere sottintesi. Umberto da Gorizia. Buongiorno. Chi è l'uomo forte per lei? La Le Pen. È una donna però, come fa di che è un uomo forte? Rappresenta proprio quello che sta accadendo un po' a tutta l'Europa, ben descritto da Eric Zemmour, lo scrittore, che dice la deriva è quella di una società sterilizzata. Ma lei è una donna, non c'ha il pisello, Le Pen, è una donna, quindi sì, è una donna. Ma questo è, sono, sì, si votano anche le idee, no? Eh sì, ma fino a un certo punto, scusi, chi vuole l'uomo forte? L'idea del non sottomettersi, mi scusi Nicoletti. Scusi, io queste cose le ho anche condivise in tempi della fanciullezza, quindi lo so bene. La frase di chi ama l'uomo forte è dire l'uomo è stato creato per la guerra e la donna per il riposo del guerriero. È questo, il resto sono ipocrisie. Se qualcuno di destra dice che è diverso, è ipocrita, pensa questo. Oggi vedere rappresentata l'estrema destra da una donna è un rospo duro da mandare giù. Non mi dica che è una cosa normale e scontata. Certo, non siamo sinceri. Se andiamo a rigore non abbiamo di meglio. Ah, ecco. Sono pochi posti, ma anche la Germania che ha prodotto Metternich, Hitler e compagnia cantando, sì, adesso è rappresentata da una donna, mi scusi la parolaccia, con le palle. Che, sì, vabbè, non li giudico, non giudico Hitler un esempio diciamo di uomo forte da seguire o da portare come modello, sinceramente, poi ognuno pensi come vuole. Sì, però si renda conto, non mi dica che non è così, è il meno peggio, non ci sono più uomini con le palle come vorremmo e quindi ci accontentiamo di una donna, è questo? Sono d'accordo con lei. Basta dirlo. Marianna Aprile, riprendiamo con te, visto? Basta chiarirsi. No, però ti posso far notare che l'intera Brexit sarà gestita da sole donne. Certo, è chiaro, per forza. La May, la premier scozzese, la capa dello Sinn Féin nordirlandese, la Merkel. Sì, ma noi, guarda caso, alle primarie del primo partito sono tutti uomini, d'altra parte sono tutte donne, cioè dove sono le nostre donne che dovranno rappresentare gli uomini con le palle? Allora dimmi un po', la Meloni, non lo so, da dove vengono? A parte fatto che già nel fatto stesso che Giorgia Meloni si irriti così tanto quando viene definita la Le Pen italiana, c'è un po' la risposta alla tua domanda. Cioè noi in questo devo dire siamo ancora più vicini ai ruoli canonici, no? Certo. Cioè, però non è necessariamente un male se le idee poi dietro sono... Sai tu che hai seguito però i politici anche su questi aspetti personali, rispondi alla mia domanda. Ci sarà una macronizzazione di Renzi oppure i 5 Stelle che non si sono ancora espressi su questa vicenda? Stanno in confusione. Come fanno a dire che stanno con la Le Pen? Perché mi sembra un po' difficile dirlo in questo caso, capito? Almeno quanto dire stiamo con Macron. Perché vorrebbe dire stare con Salvini, vorrebbe dire stare con tutt'altra gente e dirlo. E nemmeno possono dire di star con Macron, è l'opposto. Beh, sulla macronizzazione di Renzi, guarda, a leggere alcuni giornali di oggi sembrerebbe che le elezioni direttamente, non il primo turno, le abbia già vinte Renzi in Francia, cioè alcuni hanno già fatto un passo oltre. Vabbè, fare i pronostici non porta mai bene, quindi. No, proprio Renzi, non Macron. No, però il discorso, al di là delle idee, degli schieramenti politici affini o non affini, la macronizzazione di Renzi può avvenire solo snaturando Renzi, cioè se Renzi si snatura, perché quel discorso che faceva... Però diciamo che guarda, Macron si è formato attraverso anni, attraverso un iter di studi, di frequentazioni che nessun uomo politico italiano, a meno di quelli che sono alla ribalta, può eguagliare. No, ma io ne faccio questione di carattere. Quella forza che consente di mostrarsi anche debole e riconoscente, come ha fatto Macron ieri sera, no? Cioè. Lui ieri a un certo punto ha detto: non sarei stato lo stesso uomo, lo stesso politico, senza mia moglie. Ha ringraziato pubblicamente, l'ha baciata pubblicamente, dove non era un bacio, diciamo, una formalità. Questo suo lato tenero e se vogliamo anche fragile, no? Perché la tenerezza apre sempre una crepa verso almeno la potenziale fragilità, sinceramente fatico. Diciamo che è anche una paraculaggine per molti uomini giocare sulla fragilità. Sicuramente, però la storia personale di Macron dimostra che le sue fragilità, le sue debolezze le ha sempre perseguiti e trasformati in azione. Cioè un ragazzino adolescente che torna nel paese dove ha conosciuto la sua professoressa e se ne è innamorato, ci torna da milionario e se la sposa, è diciamo la favola contemporanea del nerd del liceo. Cioè al liceo il figo qual è? Quello che cambia una fidanzata al giorno, se ne trova una più bella dell'altra. Ma ti ho detto, infatti, ma nel senso di questa missione è che dobbiamo cambiare completamente i nostri parametri rispetto a ciò che è vincente, a ciò che è figo, a ciò che è popolare. Forse un po' ce l'ha data anche Sofì, l'ascoltatrice di prima. Dice: io ho votato Macron perché era l'unico in grado, secondo me, di arginare la Le Pen. Quasi che diciamo l'equilibrio finale, no, dei tratti caratteriali in ballo dovesse rimanere inalterato. Di fronte a una Le Pen troppo macista ci serviva un profilo sicuramente altissimo politicamente come quello di Macron, ma in grado di esprimere umanamente le emozioni più familiari, più prossimi. Allora, ferma un attimo, Marianna. Volevo far concludere a Giuseppe Neri. Ricordo che è un neuropsichiatra, past president in Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Fammi un quadro adesso finale, te. Mi sembra aver capito. Dobbiamo rivedere completamente i nostri schemi. Non è che di fronte al duro dei duri bisogna essere il durissimo dei durissimi, ma bisogna ritrovare un'altra strada che è totalmente diversa, opposta. Beh, non siamo la Francia. Quello che non abbiamo detto è che negli anni 90, quando nacque fra Brigitte e Emmanuel la storia al liceo La Providence ad Amiens, era un liceo di gesuiti. Immagini cosa sarebbe successo in un liceo di gesuiti italiani, o peggio ancora in una scuola religiosa. Lui l'avrebbero mandato a rieducare in qualche posto. No, lo scandalo, la messa all'indice. Lei l'avrebbero radiata da tutte le scuole del regno. L'abuso sessuale nei confronti di un minore. Allora questa è la grande differenza che ci separa e che ci distingue, e anche, come diceva Marianna Aprile poco fa, ricordiamoci che ieri sera i politici francesi, anche quelli tradizionali, nel dichiarare voteremo Macron, hanno usato una parola che dice tutto, dice: noi faremo barrage, che vuol dire fare diga, arginare. il che significa la consapevolezza, come diceva la signora Sophie, del fatto che chiunque sia Macron, al di là dei suoi meriti, era indispensabile mettere una barriera forte e potente alla demagogia populista e alla tendenza di Le Pen a dire tutti fuori, tutti da cacciare, aboliamo l'euro, usciamo dall'Europa, cose folli che soltanto la demagogia poteva sostenere, ma che avevano presa su quella Francia profonda e sempre più impoverita dove ha preso i voti. Quindi non funzionerà in Italia la stessa formula? No, voglio dire, macronizzare Renzi manca la materia prima. Renzi o chi per lui? Non esisterà il manca Macron in Italia. Manca la materia prima. Gli scout non sono l'École nationale d'amministrazione. Il nostro grande problema, non abbiamo le materie prime. Grazie Beppe Neri, grazie Marianna Aprile. Alla prossima.